l'epica normalità di Springsteen. Che Bruce Springsteen sia un personaggio singolare nel panorama della musica rock è sempre stato evidente, come aveva già notato a suo tempo Bono, l'idolo degli U2. Non ha mai fatto le cose che la maggior parte delle rockstar fanno. È diventato ricco e famoso, ma non si è mai trovato in imbarazzo con tutto questo successo. Nessun arresto per droga, nessuna pulizia del sangue in Svizzera. E la cosa più importante è che non gioca nemmeno a golf. Nessuna acconciatura strana, nemmeno negli anni Ottanta. Niente vestitini nei videoclip, parti cinematografiche imbarazzanti, cuccioli di serpente o di scimmia. Nessuna mostra di suoi quadri, nessuna lite pubblica e non si è mai dato fuoco. Una singolarità che risiede dunque nella normalità. Niente male per una rockstar, per una volta bella, ma non dannata né maledetta, come dimostra anche il volume fotografico, Giorni di sogni e speranza, un ritratto intimo di Bruce Springsteen, testi e fotografie di Frank Stefanco, Arcana Editrice, uscito a maggio, subito prima del mini tour italiano di giugno del Boss, che se da una parte lo ritraggono in bianco e nero composto e che rievocano immediatamente Elvis Presley, dall'altra non possono cenare quel sorriso pulito e quello sguardo intenso da bravo ragazzo americano che ha sempre con sé la chitarra e soprattutto la sua band, da qui il soprannome che lo accompagna sin dall'inizio. Si tratta di fotografie risalenti agli anni 1978-1982, il periodo che ha consacrato Springsteen una star di grandezza mondiale. Tra i due album Darkness at the Edge of Town e The River, le cui copertine sono occupate proprio da due foto di Stefanco, che a distanza di 30 anni non hanno perso il loro fascino, e non solo per i fan del cantautore del New Jersey. Il punto è che parlare di Springsteen vuol dire parlare dell'America. Bruce Frederick Joseph, classe 1949, a 63 anni, ha realizzato con i suoi 17 album incisi in studio e quasi mezzo migliaio di canzoni all'attivo un'acuta ricognizione energica, ma a tratti anche dolente, della Land of Hope and Dreams, come recita una delle sue canzoni più note, e incisa di nuovo nell'ultimo album da poco uscito, Wrecking Ball, come ricorda Brandon Flowers, leader del gruppo rock The Killers. Da ragazzino non capivo quanto terreno avesse coperto con la sua musica. Le sue canzoni sono state essenziali nel farmi innamorare nuovamente della mia America. Bruce ama la sua terra, quindi la rimprovera, come ha fatto in passato e come ha nuovamente ripetuto nella sua ultima raccolta, un duro, intenso e potente atto d'accusa e d'amore per un paese che gli appare ferito a morte, anche se ha ancora intatta la facciata della vitalità e della democrazia, come canta in Death of My Hometown. Non è volata alcuna palla di cannone, nessun fucile ci ha abbattuti e nessun uomo di morte ci ha colpiti, ma è sicuro come la mano di Dio che è arrivata la morte in questa città. Mi sono svegliato in una notte tranquilla, senza udire il rumore, predoni hanno fatto incursione nell'oscurità e hanno portato la morte nella mia città. Hanno distrutto le nostre famiglie, le fabbriche e si sono presi le nostre case. Hanno lasciato i nostri corpi sulle pianure. Gli avvoltoi si sono prese le nostre ossa. È l'America della crisi finanziaria che Bruce canta con un impeto quasi veterotestamentario, degno del profeta Amos, che in Jack of all trades grida: il banchiere diventa sempre più grasso, il lavoratore diventa sempre più magro. E tutto ciò accaduto in passato e accadrà di nuovo. Un grido che però termina aprendosi a una appena intravista speranza. Qui abbiamo sopportato la siccità, ora sopporteremo il diluvio. Sta arrivando un nuovo mondo, non riesco a vedere la luce. Sono un tuttofare, staremo bene. L'eco biblica è fortissima in questo ultimo album, che con sonorità folk e gospel, ma anche rap, canta l'attraversamento di un rocky ground, ma che è realizzabile se ci si appoggia alla roccia della tradizione, perché anche i morti possono dire «We are alive», come fanno nell'ultima canzone, una sorta di Spoon River concentrata in 5 minuti di puro folk rock alla Johnny Cash. Springsteen ha sempre intrattenuto un intenso corpo a corpo con il testo biblico. Il linguaggio della Bibbia e del cattolicesimo ha forgiato il mio immaginario di bambino e adolescente, ha più volte riconosciuto Bruce, figlio dell'irlandese Douglas e dell'italiana Adele Zirilli, realizzando una parabola lungo ormai 40 anni all'insegna di un cammino di conversione, di caduta e redenzione, di peccato e rinascita. Un cammino che, come ha osservato qualche anno fa in un breve saggio sulla civiltà cattolica padre Antonio Spadaro, oscilla tra le Ballads e le Promised Land, titolo di due canzoni del 78, varcando di continuo il confine tra luce e l'oscurità, tra lo smarrimento e il ritorno a casa. Non è un caso che in passato, ma anche di recente, l'associazione culturale Bomba Carta, fondata dallo stesso Spadaro, ha realizzato degli eventi poetico-musicali dedicati al cantautore americano, come quello del 10 marzo scorso ad Anzio, presso il Christ Chapel College, mettendo in luce le radici bibliche del suo immaginario. Un punto di svolta in questa parabola è senz'altro l'album Nebraska di 30 anni fa, che Springsteen compone dopo aver letto i racconti di Flannery O'Connor, scrittrice non sebbene ma proprio in quanto cattolico, che riportava al centro della narrativa il tema del male e l'opera della grazia divina in un territorio occupato in gran parte dal diavolo. Questo territorio è già il margine della città in cui cova l'oscurità, Darkness at the Edge of Town, ma ancora di più il mondo delle 10 canzoni di Nebraska, 10 spettri che con il rumore della loro catene, raggelandolo, vireranno a nero il candido sogno americano, l'immagine spettrale del romanziere romano Leonardo Colombati, che ha appena pubblicato un mini saggio, edito da Sironi, interamente dedicato all'album del 1982, che non a caso si apre con l'affermazione della O'Connor: la narrativa riguarda tutto ciò che è umano e noi siamo polvere, dunque se disdegnate di impolverarci non dovreste tentare di scrivere narrativa. La tesi di Colombati è che con Springsteen ci troviamo di fronte uno dei maggiori narratori americani del Novecento a livello dei vari Faulkner, Steinbeck, Hemingway, O'Connor, Cormac, McCarthy. Lo scrittore romano si trova in una compagnia sempre più folta. Oltre al già citato Antonio Spadaro, non si possono dimenticare il recentissimo Springsteen, Spare Parts, testi commentati, 1973-2012, a cura di Ermanno Labianca, Arcana Editrice, e il saggio Oltre il confine di Luca Miele, pubblicato da Pardes nel 2006. Tutti i più acuti osservatori dell'opera del boss del rock concordano nel rintracciare, nelle sue canzoni e nella potenza dei suoi show dal vivo, una poetica narrativa del sapore epico che vede al centro il male e insieme la domanda sul destino dell'uomo, il mistero della sua posizione sulla terra e contemporaneamente l'anelito per un'ulteriorità, qualcosa che possa riscattare l'esistenza e traghettarla appunto across the border, oltre il confine.